anche per la festa di San Valentino, documentando, l'archivio del documentario italiano offre dei titoli ad hoc e siamo qui per parlarne con Enza Negroni, presidente d'ER, documentaristi Emilia Romagna. Buongiorno Enza e bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti. Allora, nell'area tematica società di appunto documentando troviamo dei documentari che avete segnalato, consigliato diciamo, per festeggiare l'amore in tutte le sue forme. Sì, nella piattaforma ad hoc a casa abbiamo alcuni titoli che possono essere proposti in una giornata come oggi. Il primo è Mai Senza, di Alessandro Tamburini, e racconta la sessualità nella terza età attraverso protagonisti sia famosi che non famosi. Fra quelli conosciuti abbiamo Paolo Villaggio, Sandra Milo, Lino Banfi, Tinto Brass, Marco Pannella, e quindi testimonianze sorprendenti da un certo punto di vista. Mentre abbiamo anche testimonianze che io apprezzo sempre molto, anche di persone non conosciute, quindi noi in qualche modo che ci raccontiamo e raccontiamo le nostre esperienze e di come si vive questa terza età. So che appunto oltre a questo ne avete anche consigliato un secondo di titolo. Sì, il secondo è molto romantico, si intitola Sini e Roy di Tissier Claudin e Fabio Campo, e racconta la storia di questa coppia giovane, molto innamorati, tra l'Italia, in particolare Bologna, e l'India. Il taglio che hanno dato è molto, diciamo, Bollywood, e quindi molto colorato, c'è molta musica, e segue la loro, diciamo, la loro storia d'amore e la loro quotidianità sia in Italia che poi in India. Quindi è un lavoro molto particolare che ha avuto molto successo. Noi ricordiamo che questa piattaforma valorizza film che sono usciti negli ultimi anni dal circuito commerciale, perché ormai già sfruttati economicamente, ma che hanno ancora un valore e anche grande qualità, e quindi noi in questa piattaforma li proponiamo al pubblico gratuitamente, senza iscrizione a una mailing list, ma in visione diretta. Certo, assolutamente, grazie per averlo ricordato, perché è sempre importante. Ma so anche che avete nuove aggiunte interessanti in catalogo, oltre appunto a queste dedicate all'amore. Sì, abbiamo innanzitutto due autori che veramente ci hanno regalato molti titoli. Il primo è Filippo Vendemmiati con ben tre film, girato all'interno del carcere d'Ozza, è la storia appunto di un'officina meccanica dove lavorano all'interno dei detenuti, e alcuni volontari di fabbriche, diciamo in pensione, danno il loro know-how. E un lavoro su Pietro Ingrao che si intitola Non mi avete convinto, e quindi diciamo una biografia non solo politica ma anche dell'uomo. E poi è stato morto un ragazzo che è molto conosciuto perché è stato il suo primo film, di Filippo Vendemmiati. Questo non è su questa piattaforma, però è comunque disponibile online e mi faceva piacere comunque segnalarlo. A livello invece di autore abbiamo un altro autore che è Paolo Muran, sempre di Bologna, che ha proposto e ci ha in qualche modo appunto regalato Mi chiamo Renato, un lavoro fatto su, diciamo, sulla storia dello stadio Dall'Ara, lo stadio di Bologna, e molto interessante. E poi anche Tutto il palazzo, che è invece sulla Basket City, sempre di Bologna, quindi sono prodotti molto, molto local in questo caso e molto interessanti. E poi ne abbiamo invece un altro di un grande autore che si chiama Francesco Merini, Palestina per principianti, che racconta invece la questione palestinese attraverso la vicenda di un musicista italiano. E quindi sono tanti i nuovi titoli, abbiamo sempre dello stesso Muran anche Felix Pedro, Se solo si potesse immaginare, che è la storia di un emigrante italiano che ha fatto fortuna all'inizio del Novecento a scoprire una l'oro, e poi fondare anche una città, Fairbanks, poi un altro titolo sempre di Moran che si intitola Man on the River, London to Istanbul, che è la storia di un'impresa, diciamo, che decide per un lungo viaggio su un fiume, e quindi è molto interessante anche questo. Perfetto Enza, io come sempre ti ringrazio per averci raccontato meglio le proposte di Documentando, sia, come dire, dedicate appunto all'amore, ma in realtà non solo, perché è una piattaforma veramente ricchissima di contenuti che riguardano appunto il documentario. Quindi grazie ancora. Grazie a voi e buona giornata e buon San Valentino a tutti.